sono in città per fare un disco. Ha scritto un bellissimo pezzo. Un classico, un classico. Mi dispiace di averti piantato in quel modo. È ora di proseguire, no? Io sono stato onesto, te l'avevo detto di non innamorarti di me. Niente di personale, giusto? Perché io, le donne mi piacciono, ma devono stare al posto loro. Ehi, sei arrabbiata con me. Perché ho vomitato sul tuo perché. Vivo tanto, non ricordo mai quel giorno del tuo compleanno. Ti chiamo puttana nelle canzoni, non t'ho mai comprato un mazzo di fiori. Mi sono scopato tua sorella, torno a casa in barella, senza budella. Ce l'hai con me perché ti chiedo di farmi il caffè. Giro senza soldi con i balordi, tutti sconvolti che con dei tuoi amici fanno gli stronzi. Però io li stimo perché capiscono la merda che scrivo. E tu che mi stai vicino nonostante tutte le cazzate che combino. Ce l'hai con me, ce l'hai con me. Bisogna di bene.